24. Storie di star. Il 3 aprile del 2004, 61 anni, muore Gabriella Ferri. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia di una delle voci più straordinarie e singolari della musica degli anni 70. Una donna passionale, generosa, affascinante, che ha avuto anche una vita difficile e tormentata. Per il grande pubblico è la rivelazione del 1973, quando Gabriella Ferri conduce il primo varietà televisivo della Rai girato interamente a colori. È uno spettacolo del sabato sera che prende il titolo da quello che è già uno dei suoi cavalli di battaglia. Dove sta Zazà? Ce ne parlano Pippo Franco e Enrico Montesano. E sto burino che esce fuori da punto in bianco si chiama Pippo o si chiama Franco? È con Dove sta Zazà che mi conosce il grande pubblico e da lì viene tutto il mio successo. L'alchimia è, da una parte, è Falqui, che è il maggior regista televisivo del momento. Gabriella Ferri, che è l'artista emergente. Castellacci e Pingitore, che sono gli autori del momento. Certi primi piani, certe macchine fisse, oppure certe macchine mobili, sono proprio espressione di come Gabriella, senza dirlo, senza probabilmente saperlo, ha egemonizzato e ha condotto tutto quanto il lavoro che intorno a lei si è svolto. Era una trasmissione nuova. Ecco, ridiamo la bacchetta al maestro Cianchetta. Ma io veramente sono pisano. E beh, io sono romana, non so se si è capito, vero? L'esperienza di Dove sta Zazà in televisione è stata fondamentale, perché ha portato il teatro cabaret in televisione. Quando si era visto mai che una cantante si vestisse da pagliaccio e uscisse fuori vestita da clown e cantasse con tanta verità in televisione qualcosa? Già questo era un fatto che comunque rompeva gli schemi. Avete sentito Vincenzo Mollica. Il varietà Dove sta Zazà è firmato Antonello Falqui, che di Gabriella Ferri dice: definitivamente occupa un gran posto Gabriella Ferri, ma è una grande personalità che non ha avuto il pari e che non credo non lo avrà. E si è fatta la vesta roscia, ne marie. Te la si fatta la vesta roscia, quando cammina te sa conosce, ne marie. La sa mamma da via come Rosa bella, dimmi sì. La grande soddisfazione di dirigere Gabriella Ferri, perché Gabriella Ferri era un grande personaggio e quindi aveva dei risultati eccezionali. La regia ha il valore che ha quando c'è un personaggio come Gabriella Ferri o come Walter Chiari o Mina, se no, certo, se no svaniscono tutte le regie del mondo. La sigla finale del programma è una canzone nata dall'ispirazione dell'interprete romana. Ce ne parla Pippo Franco. È il tempo che passa su tutti e che passa sugli amori, che passa su tutte le circostanze e che chiude la nostra vita. Che nessuno canta più. Una donna artista, insomma, è dunque, come ha detto di lei Federico Fellini, una voce, una faccia, un clown. Una trasformista, un'attrice, una mattatrice che canta, recita, conduce e muove da sola lo spettacolo. E il successo di Dove sta Zazà si ripete 2 anni dopo con Mazza Bubù, un altro varietà che ha fatto epoca. La Ferri, del resto, è una forza, un talento, un grande talento, e la sua strada inizia nel cuore di Roma, a Testaccio, dove nasce il 18 settembre del 42. Sentiamo Gabriella e la sorella Maria Teresa Ferri. E diceva Merzelletta, ma se chiamava Mario, un ragazzo straordinario, con un certo e non so che. È la storia di un ragazzino che non si lavava mai, si chiama Erzelletta, di cui io ero innamorata pazza. È stato il primo flirt che ha avuto Gabriella, sì. Neanche sa che la canzone è per lui, mo' mi scriveranno tutti quelli che non si lavano, voglio dire. Erzelletta. Con una spinta e con abbracci, tutto quanto mi insegnò. Mio padre se ne accorse, e quindi lui la sera, rientrando a casa, con la sua severità: vieni qui, adesso ti sistemo io. Si levò la cinta dai pantaloni. E mi padre, ma ricordo quanto mi fece cuore, con gli strilli e con torture, e poi quanto meno. Siamo nate tutte e due nello stesso appartamento di Piazza Santa Maria Liberatrice, numero 18. Mamma era una gran signora, diciamo, di modi. Una madre dolcissima, piccola, minuta, esile. E Nina s'affacciava dal barcone, era un motivo semplice. Un padre che lei diceva malandrino, col grugno. Non era certo un cittadino esemplare. C'era questa grande passione di mio padre per il ballo. Sai che me lo diceva Gabriella stessa, diceva va, chissà dove sta stanotte. A Testaccio dicevano che era il meglio tacco di Roma. Il papà quando tornava dalle sue imprese la doveva trovare a letto. Nannare, perché ti sei innamorata di sta musica americana? E lui aveva la vena artistica, quindi il lavoro materiale e manuale non ne voleva sapere. Malagheña. Quindi lo ha detestato e amato molto. Eres linda y hechicera, eres linda y hechicera. Como el candor de una rosa. Y decirte, niña hermosa. Eres linda y hechicera, ay. Eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, sale rosa. Ser tu labio quisiera, ay, tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera. De una rosa y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, ay, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Siamo nel 64, lascia Roma per cercare fortuna a Milano insieme all'amica Luisa De Santis. È l'inizio di una carriera all'insegna della musica folk. Una carriera che nasce sotto la stella fortunata di Mike Bongiorno, come racconta Luisa De Santis e la sorella di Gabriella, Maria Teresa. Fatece largo che passiamo noi. Giovanotti detta Roma bella. Ci presentò in una maniera secondo me terrificante, cioè la ragazza dei quartieri alti che sarei stata io e la ragazza dei quartieri bassi che sarebbe stata lei, cosa terrificante. E le ragazze famo innamorare, ma che ce frega, ma che ce porta. Andammo un giorno in un mercatino di cose usate che stava a Via Sannio, San Giovanni, dove andavamo a comprare la roba americana. C'era un disco di un ragazzino che avrà avuto 13-14 anni che cantava La società dei magnaccioni. E sì, per caso la suocera muore, se famo su spaghetti matriciani, bevemo un par di... Canzone che ci ha, come dire, incantato per la sua, non so, forse anche bruttezza, non ti so dire, però... Quindi abbiamo comprato questo disco e abbiamo cominciato a cantarla insieme. Io ci ho messo l'acqua e noi le dimo e noi le... da qui è incominciata questa strana avventura che abbiamo avuto insieme. Me dicono che è stata la malaria. Gabriella l'ho conosciuta nel lontanissimo, lontanissimo 1963. Mai messo le catene. Lei lavorava come commessa in un negozio, si chiamava Rolands, che stava vicino a Piazza del Popolo. Vendeva cose inglesi, era un Old England ed era una commessa molto, molto simpatica e molto efficiente. Io ero quella che andava a comprare, a me non mi piace raccontare questa storia, la trovo terribile, però d'altra parte era così. Non posso più. Poi Gabriella a un certo punto prese questa decisione, andò a Milano con Luisa, non sopportando più, diciamo, la severità di papà. Sono partita di sera ed ho detto in famiglia: state tranquilli, qualcosa accadrà. Noi a Milano siamo andate nel 64. In casa ho lasciato due stanze, una vita, tra punta di fame e di cose lasciate. Nonostante io fossi figlia di un regista, la mia famiglia mi lasciava molto libera di fare quello che volevo. Noi avevamo una lettera, io questo è anche un'altra cosa che tendo a non dire, una lettera di mio padre. Siamo entrate nei salotti mondani intellettuali milanesi, capito, attraverso Camilla Cederna, e quindi poi noi in questi salotti canticchiavamo queste tre cose che sapevamo. Giornalista straordinaria, intelligente, ci portò nel primo cabaret che era aperto a Milano da pochissimo, dove c'era Enzo Iannacci, l'Intras Derby Club si chiamava. Perché è facile perdersi dentro i cortili ricolmi di fame. Andammo dal proprietario e gli dicemmo che noi eravamo delle cantanti di cose popolari, che non era assolutamente vero naturalmente, che ci sarebbe piaciuto cantare lì. Allora c'era anche Iannacci, che era un altro talent scout notevolissimo. Questo "ma che ce frega, ma che ce frega", questa cosa qui ha divertito molto anche Iannacci. La sera stessa abbiamo cantato "che c'ha rifrega". In quella situazione quell'altro genio, diciamo, di Mike Bongiorno ci ha adocchiato lì e ci ha portato in questa trasmissione che si chiamava La Fiera dei Sogni. Sull'onda del successo raggiunto a Milano, Gabriella Ferri torna a Roma. È il 1965 ed è la Roma del Piper, dei Paparazzi, delle Notti Insonne. Una Roma dove è appena sbarcato anche uno sconosciuto ragazzo del sud, di nome Renzo Arbore. Per Gabriella Ferri è un incontro decisivo. Sentiamo il racconto di Arbore e dell'amica Luisa. Quando ho conosciuto Gabriella Ferri, è un ricordo molto tenero, anche sorridente. Che te fischia sorfegnone, state zitto, abbi rispetto. Appena sono arrivato a Roma con la 500, io sono sbarcato senza manco andare in albergo a Piazza del Popolo da Rosati. Lei frequentava il bar Rosati perché appunto lavorando lì aveva conosciuto da Rosati una serie di intellettuali da caffè, diciamo, e quindi l'avevano in qualche modo adottata perché era una ragazza appunto molto speciale, Gabriella. Io c'ho solo sti 20 anni, come fossero un dispetto. E c'era come una festa, Manfredi, cose, Gassman, e poi c'erano le romanine. E sì, poi penso all'amore. Il soffitto Marimiro. Lei mi ha detto: perché non andiamo a ballare? Quella sera ci siamo stretti un po' e è nata un'amicizia straordinaria con Gabriella Ferri. Renzo era un ragazzo simpaticissimo, non era ancora Renzo Arbor, era un appassionato di musica ed era un appassionato anche di Gabriella, gli piaceva molto Renzo. Devo dire la verità, avevo una storiella con Gabriella, non era una storiella, era una bella storia, perché lei era sorridentissima e c'era una grande, un grande feeling tra me e lei. Smorse il lume, ma rigiro. Simpatica, vivace, era veramente un colpo di fulmine stato. Io l'ho molto ammirata, Gabriella, molto molto. Eccentrica nel vestire, cosa che a me piaceva. Abbiamo cominciato subito a parlare, a trovare cose in comune, a ridere. Io mi ricordo che una volta si vestì tutta di bianco, ma proprio di bianco, era tutta bianca. Un ragazzo romano passò con la bicicletta e le disse: «Ah, infermier, e fammi un'iniezione al cuore». Ragazzo triste. Erano gli anni beat, non dimentichiamolo, erano gli anni nei quali c'era la ricerca e soprattutto la voglia di non essere borghesi. Quando uscivamo insieme io la sgridavo se lei mescolava l'aspirina con la Coca-Cola, dicevo: «Guarda, davanti a me queste cose non le devi fare». Oltre a Luisa De Santis, Gabriella Ferri stringe amicizia con un'altra grande cantante, Patti Pravo, che così racconta quegli anni. C'era Luisa De Santis che veniva a Venezia, all'Isola di Venezia, con il papà. E quindi ho conosciuto Luisa. Quando sono venuta a Roma, le ho incontrate che stavano facendo il duettino loro, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo continuato questa nostra amicizia. Certo, eravamo liberi, eravamo spiriti liberi, ci divertivamo con nulla. Nessuno può stare solo. Però gli dava. Gli dava, nel senso che si divertiva. Noi eravamo già così curiose, così aperte, così desiderose di conoscere, forse perché già stava arrivando quell'ondata. L'avete sentito Luisa, amica di Gabriella Ferri. Intanto la Ferri ha cominciato a fare cabaret negli spettacoli di Castellacci e Pingitore. Con lei si affacciano sulle scene comici destinati a un grande successo, come Oreste Lionello, Pino Caruso, Pippo Franco, Enrico Montesano. È la scuola del Bagaglino, una piccola cantina nel centro storico di Roma. A parlarcene Enrico Montesano e Pippo Franco. Che poi che c'era? Una pedana, un fondale nero, uno spot, e però c'era Gabriella. Ogni giorno cambio fiorra e la punta in patata. Il Bagaglino era un luogo nel quale ci si esprimeva attraverso la satira, satira politica, satira di costume, completamente fuori dai denti. Credo di averla incontrata la prima volta al Bagaglino. Di persona. Bravo, bravissimo! Grazie, grazie assai, donna Gabriella. A me Enrico Montesano mi dà della donna. Non era molto difficile capire che Gabriella era una persona con una grandissima personalità. Donna Gabriella, ma voi mi amate? Uè, don Enrico, ma come, quante siete antiquate! E credo anche che non sia neanche questa una grande scoperta, una vivissima intelligenza. E basta con questa esagerazione dal maschio latino. E ha parlato a svedese. È che è anche una bella ragazza, quindi era piacevole stare con lei. E leva la gammasella. La gammasella, gnorno, gnorno. Si non te vuole, vabbè, so se me ne vaga qua. Si non te vuole, vabbè, so se me ne vaga qua. Per non riproporla nello stesso modo, io feci la parte che era del femminile e Gabriella fece la parte maschile. Tutta! Se la me la ce levate nel contento fa quella che fa. Quella era la scanzonatura e l'ironia che avevano Castellacci e Pingitore. Che ora? Adesso? Dammi c'è un vasillo. Un vasillo, no, no, no. Dammi c'è un vasillo. Un così, no. Se non me lo vuoi dammi so se me ne vaga a ca. Se non me lo vuoi dammi so se me ne vaga a ca. Gabriella non aveva soltanto un talento artistico, ma aveva sostanzialmente ed anche un talento fisico, e attraverso i suoi occhi, attraverso proprio le sue fattezze, che usciva fuori quello che lei era dentro. Nonostante il successo, a Gabriella Ferri l'etichetta di cantante folk e il cabaret cominciano a stare stretti. A sorpresa, la Ferri decide allora di partecipare a Sanremo. È il 69, la competizione prevede che i cantanti si esibiscano in coppia. Al suo fianco c'è un grande della musica nera americana, Stevie Wonder. Mio padre ha scritto il testo, infatti è un testo abbastanza ingenuo, no? Se tu ragazzo mio sei triste, eccetera. E io l'ho fatto la musica con una piccola collaborazione di Pintucci. Sì. I fiori sono out Un bel mix tra la melodia italiana, inventata da Gabriella, ed il pezzo di rhythm and blues, di soul. Così il ricordo della sorella Maria Teresa Ferri. Me lo ricordo, stavo là. Mi ha fatto impazzire 15 giorni prima di partire per Sanremo per cercare un vestito da mettere per quella serata. Quando si è rivista sul monitor, tu questo vestito un momento. Quando fu la sera, prese sto vestitino nero di maglina, un vestitino quasi minigonna di maglina nero, semplicissimo, un paio di stivaloni fino al ginocchio di vernice nera, si truccò da sola, il capello corto, e lei cantò. Si classificò penultima, non mi ricordo. Arrivò al telegramma di mio padre e gli disse: non ti amareggiare, non ti demoralizzare, tu sei una Ferri. Non sono delusa, me l'aspettavo. E posso capire che il pubblico italiano non afferri una canzone forse eccessivamente onesta. Lei non ha rimorso ad aver lasciato le folk song, ad aver passato il fiume? Assolutamente no, ho deciso di rimanere la persona che sono, cioè di dare al pubblico la mia verità. Guarda il sole d'oro, illumina il tuo viso, il mondo ha già capito quanto amore. Storie di star. Rieccoci a Mix 24 con la storia di Gabriella Ferri. È il 67 e l'artista conosce Giancarlo Riccio, un giovane diplomatico. In pochi giorni lo sposa e insieme volano a conoscere il padre di lui, che è ambasciatore italiano nel Congo. Una scelta impulsiva che si rivela subito un errore, come racconta la sorella Maria Teresa. Lei si rese conto che non era il suo ambiente. E lo so che non ti piace, che lo trovi volgare. Il tempo di ritornare in Italia e di dire: non sono la persona più adatta per te, a te ti serve una persona che rispetti l'etichetta. Anzi, ci vado in farmacia col mio vestito rosso, che vada ai pranzi in ambasciata. Io non sono quella persona. Tradotto in italiano significa lasciami sola. Io vorrei consigliarlo a chi vuole divorziare, gli agganta al marito. Araba de finestra, fama faccia maria. Avete sentito Gabriella Ferri. Dopo 6 mesi, divorzia da Giancarlo Riccio e poi il colpo di fulmine per Zeva Borzac, che racconta così il loro incontro. La prima e l'unica volta che ho conosciuto Gabriella era durante la conferenza di stampa, perché lei è venuta per fare il spettacolo televisivo a Caracas. Il nostro incontro è stato di lavoro, io ero in tournée nei vari paesi del Sud America, tra cui il Venezuela, dove lui mi ha richiesto. Ero amministratore delegato nel settore delle finanze della compagnia RCA per Sud America. Come l'ho visto, ho sentito non carrozza, si dice a Roma, no? Nel cervello, i bersaglieri sono arrivati, i bersaglieri con la piuma sul cappello, è arrivato pure quello. Sì, invece proprio non mi si fidava in niente. Diciamo simpatia a prima vista, perché io non credo a questi amori di prima vista, sono infatuazioni. Ci siamo sposati praticamente esattamente sei settimane dopo. Anzi, forse un mese dopo che ci siamo incontrati, il 23 agosto. Se non è colpo di fulmine questo, cos'è? È l'amore. Gabriella è diventata molto popolare nel 69 in tutta Sud America, specialmente in Argentina, prima e dopo in Venezuela, con una canzone che è intitolata Ti regalo gli occhi miei. Ti regalo gli occhi miei, i capelli, la mia bocca. Cantava in spagnolo. L'aire che respiro, io mi vida te regalo. Quindi la gente capiva le parole, la canzone era scritta da lei e suo padre. Che mio amore salvo grande. Una canzone dell'amore. Di che il tuo solamente. Anzi, come si dovrebbe amare. Vale poco, casi nada. È stata in classifica, prima in classifica per quasi un anno, che è una cosa insolita. Tre dischi d'oro. Più di 1,5 milioni dei dischi solo in Venezuela. In Argentina ne ha venduto quasi 3 milioni. In Messico ha venduto un altro 2 milioni. Quindi in America Latina era molto, molto popolare, specialmente tra i giovani. Ti regalo, io mi sto. Gabriella Ferri, insomma, ha sfondato anche all'estero, ma in Italia rimane la grande interpretazione del folk romano. Sentiamo ancora Enrico Montesano e Renzo Arbore. C'avevo un petto al cuore, l'ho perduto. Come si chiama? La sotto l'arberi del Lungotevere. La sotto l'arberi del Lungotevere. Le coppie vilano, le baci scrocchiano. Se non sei pratico da regge i moccoli, per Lungotevere non c'è passato. Se non sei pratico da regge i moccoli, per Lungotevere non c'è passato. Come ha cantato lei le canzoni romane, non c'è niente da fare, con quell'amore per la città, con quell'espressione straordinaria, con quella purezza di vernacolo o di cadenza romana che Gabriella aveva, perché era testaccina e se ne vantava. Voglio cantare così, fio. Un altro grande incontro segna la vita dell'interprete, quello con Claudio Villa, con cui si cimentavano in stornelli ed improvvisazioni. A parlarcene è Pino Strabioli. Fiore de nocchia. Oddio quanto sei racchia, racchia, racchia. L'incontro fra questi due è davvero geniale. Voglio vendere così fiore. quanto sei dato. Spesso Gabriella Ferri faceva gli stornelli così, li improvvisava all'impronta, a ruota libera, li faceva al ristorante, li faceva a casa, li faceva per strada. Tu madre non ci sei, sprecata troppo. Ricordo, andavamo ad Orvieto, io e lei in macchina, io avevo una 500, lei aveva un'enorme pelliccia, era un momento in cui era anche bella grassa, per cui questa macchina era piena di Gabriella Ferri, con io che guidavo, ci ferma la polizia subito dopo il casello di Orvieto. Scendiamo, il poliziotto la riconosce e lei si mette lì sul ciglio della strada e gli regala tre canzoni. Questi due poliziotti così e lei che canta, non mi ricordo cosa, ma la femmina forse. Dammela, se tu mangi una vibra, ma tu sei catalano, non posso più campare. Quella potenza, quel sapersi esprimere sul palco, quella voce incredibile, ma quelli sono doni, non sono eredità, sono cose che ti danno. Avete sentito Patti Pravo? Gabriella Ferri è una cantante folk romana che però comincia anche a frequentare, come abbiamo visto, il grande repertorio napoletano. Ed è proprio a un pezzo della tradizione napoletana che sarà legata per sempre alla sua fama. Un brano celeberrimo e struggente. Dove sta Zazà? Ce ne parlano Renzo Arbore e Maria Teresa Ferri. Zazà, zazà, zazà, zazà, è una canzone per banda. Zazà, zazà, zazà, zazà. Tutti credono che Dove sta Zazà sia un pezzo comico. Dove sta Zazà è tragica. Era la festa di San Gennaro, la trappetta canta il coro, bandarella in processione, chi se può dimenticare. C'era la banda di Vignadara, centinaio di bandarelle, di torrone e di Rocilla che faceva di Zazà. Gabriele le ha trovato un'anima malinconica e drammatica che forse io stesso non avevo intuito. E Cutolo le scrisse una lettera di congratulazione e disse: dopo tanti anni ho trovato l'interprete giusto per la mia canzone. Raffaele Cutolo era quello che aveva scritto Dove Zazà. Il dramma era questa la sua caratteristica. Nella costruzione dei lavori lei andava cercando proprio questo, l'espressione di quello che aveva dentro, il senso drammatico, partecipato, passionale della vita. Avete sentito Pippo Franco. Gabriella Ferri affronta il grande repertorio napoletano e Napoli la accoglie e la ama. Deve ad Arbore la scoperta di un certo repertorio, come ci racconta lui stesso. Pensiamo anche a Ciccio Formaggio, quelle cose di Nino Taranto, quelle gliele ho insegnate io, e che lei le ha fatte lente, le ha fatte diventare malinconiche. Lei era quella lì, era Ridolini con dentro, ecco, quest'anima tormentata, però era Ridolini lei. T'angondrai, da parlai, e mi innamorai di te. Quella era una maschera in cui lei nascondeva tutto quel macello. Così parla di Gabriella Ferri la sua amica Luisa. E infatti la vitalità dell'interprete è forse solo una maschera che nasconde un tormento interiore. Dopo il grande successo televisivo di Dove sta Zazà e Mazza Bubù, negli anni le sue apparizioni si fanno sempre più rare e poco incisive. Lo smalto degli anni 70, insomma, sembra smarrito per sempre e le crisi depressive si fanno sempre più forti e più frequenti. Ce ne parlano i familiari e le amiche, Patti Pravo e Luisa De Santis. Lei non era depressa ultimamente, era più agitata. Un dolore interno, un dolore emotivo. Anzi. Una vera e propria angoscia, a volte proprio giorni neri. Ho cominciato a soffrire un po' di depressione con la morte di mio padre. Papà è morto che Gabriella stava registrando al Delle Vittorie la quarta puntata di Mazza Bubù. La perdita del padre è stata forse il più grande dramma della sua vita. Ma sai, gli artisti mica sono quello che appaiono sempre, bisogna andare a scavare dentro. Gabriella era molto, molto forte, ma con un fondo evidentemente fragile. Sarebbe bello sapere almeno a che ora si muore. A vedi la luna! Nasceva tutto, come posso dire, non per il gusto di stravolgersi, ma per la paura di non essere sempre comunque all'altezza della situazione. Prima di entrare sul palco c'è sempre una grande tensione. Chi se la vive in una maniera, chi se la vive in un'altra. Si dice che Vittorio Gassman, prima di andare in palcoscenico, beveva un bicchiere di vodka. C'è chi ha più paura, chi meno. C'è chi ha più sensibilità e chi meno. La paura non è altro che l'essere più sensibile a un certo determinato evento. Mia madre si svegliava con il panico, in alcuni giorni aveva paura. Paura di cosa? Non lo sappiamo. Ma aveva paura. E quindi, quando ha paura, invece di prendersi il bicchiere di vodka, si metteva la pillolina che la faceva sentire un po' meglio, la tirava un po' su. A Roma, Roma, le belle romane, ma so più belle le tre staverine. La ruba cori sole monticiane, la ruba cori sole monticiane. Sora America, Sora America, oggi è domenica, la seccia sta. Siamo tre steverine, non tremamo, paura non avemo di nessuno. Ci avemo buona lingua e meglio mano. Avemo buona lingua e meglio mano. Sora America, Sora America, oggi è domenica, la seccia sta. Mix 24, storie di star. Tarantella facine ciocunte, non vale più a niente ho passato a pensare. Quando non c'è stanno le tram, la carrozza è sempre pronta, nata all'angolo sta già. Caccia un enno crespa gialla, mietta vesta chiuccarella, con una rosa in de capille, sai che mi tengo alla me. Tarantella facine ciocunta, non vale più niente, ma come, perché? E basta che c'è sto sole, che c'è rimasto mare, da nena a cuore, una canzone può cantare. Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, chi ha rato, ha rato. Scordammo ciò passato, se me ne vuole paesà. Tarantella, sto mondo è una roda, chi sa gli s'aiuta, chi sta a cadere. Dice buono mutta antica, che se sconda ne baccate, oggi a me di mano a te. In un poco fatta fine, penso male, penso bene, ma sta bocca curallina, cerca mia pomma vasà. Tarantella, c'è un mondo e una roba, pigliamo un minuto che sta per passare. E basta che c'è sto sole, che c'è rimasto mare, la nenna cor a cuore, una canzone fa cantare, chi ha avuto, avuto, avuto, chi ha rato, rato, rato, scordammo ciò passato, ci menavo le paese. Tarantella o cocchiere un amico, non agarra più a Ovigo a doma a portare. Moredenno e mo cantando, se scordato copri fuoco, va soltanto campanare. Quando sta Santa Lucia, signori, c'è di Cianuia, a casa steva a casa mia, sono rimaste soltanto io. E chi ha niente, chi ha niente, sa via, ma va nostalgia, fa presto a farmi. E basta che c'è sto sole, che c'è rimasto mare, la nenna a cuore a cuore una canzone, tocca andare, chi è avuta, avuta, avuta, chi ha rato, rato, rato, scordammo ciò passato, si me ne voleva esa. Scordammo ciò passato, si me ne voleva esa. Una cantante folk, una grande interprete anche della musica napoletana e una protagonista di spettacoli indimenticabili della televisione italiana degli anni 70. Una donna travagliata che soffre di depressione e presto è vittima di una voce che comincia a circolare, quella della droga. A parlarne lei stessa e i suoi amici Patti Pravo e Enrico Montesano. La malattia che mi ha perseguitato per tanti anni e che spesso mi costringeva a ricoverarmi in clinica, il giornalismo, quello pessimo, quello di cattivo gusto, faceva passare la mia malattia per una sorta di male oscuro, come se mi drogassi. E questo mi ha fatto molto arrabbiare. Perché una persona si fa 2 o 3 canne, eccetera, eccetera, diventa un drogato, non si può più gestire, non si può più lavorare. La televisione in Italia fa vergogna, funziona soltanto, detto con molta brutalità, se uno ha le tette così, il sedere così. Un carattere difficile, capisco, questa è una cosa molto... non te la perdonano, insomma, bisognerebbe avere un po' più di pazienza con dei grandi artisti. Sai, se tu ti aspetti che il mondo dello spettacolo ti dia qualcosa, il pubblico. Cos'è la depressione, no? È il sentire delle cose che gli altri non sentono, con la propria sensibilità. Cammini davanti, che ne so, il centro, c'è questa gente che va senza gambe, e la gente cammina, passeggia, non li vede, sono invisibili per la più parte della gente. Per mia madre invece esistevano solo loro, gli altri non erano invisibili, gli altri, quelli normali. Avete sentito Seva Borzac Junior, figlio di Gabriella Ferri, e il 3 aprile del 2004 l'arte, l'allegria, il dolore, la vita di Gabriella Ferri si spengono per sempre nel più tragico dei modi. Si lancia dalla finestra della casa di Corchiano vicino a Viterbo, dove da qualche anno la Ferri si è trasferita con la sua famiglia. Questo è il ricordo dei familiari e degli amici. È stata una cosa totalmente inaspettata. Totalmente inaspettata, che ci ha ovviamente distrutti. È stata una cosa che non si può, ecco, con le parole non è semplice. Io devo dire un'altra cosa terribile. Io ho sempre pensato che lei avrebbe avuto una morte violenta. Assolutamente innaturale la morte di Gabriella Ferri, sì. Uno stupido, orrendo incidente. E basta. È troppo facile esprimere un giudizio. Penso che qualunque giudizio sia sbagliato. Avevo perduto qualcuno della mia razza. L'avevo vista, mi aveva detto sto bene, sono contenta. Mi sono di nuovo innamorata di mio marito, mi sono innamorata di mio marito, ma ci pensi? abbiamo trovato tutti questi striscioni a testaccio, specialmente dove abitavamo, sui giardinetti. Tutte le finestre della piazza erano spalancate e ogni finestra ci aveva messo ad alto volume un disco di mia sorella. Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Io ho visto il grande amore che la città ha, non nella persona dell'autorità, ma il popolo che si è presentato di tutti i colori. C'era tutto, c'era di tutti i colori. E questi colori sono i colori di Gabriella Ferri. Quando vedo la distanza tra il bene e il male. Se Gabriella avesse saputo veramente quanto era amata, non cadeva in depressione. Non ci sarebbe caduta in depressione. Mi creda. Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Io quando vado a trovarla, vado quasi ogni settimana al cimitero, gli porto sempre garofani rossi. Gli metto garofani rossi perché era il suo fiore preferito. Della mente umana. L'ultima apparizione pubblica di Gabriella Ferri è in occasione dello spettacolo Notte in Bianco nel 2003 di quella che è sicuramente una delle sue eredi, Tosca, che la ricorda così. L'ultima volta che l'ho incontrata è stato in uno spettacolo che io facevo. Ha detto sì! Mi hanno fatto uno scherzo, non me l'hanno detto. Amore! Vado a comprare le sigarette! Alla fine di questo spettacolo si è aperta la porta ed è entrata lei. Anche su. Lei è salita, abbiamo cantato sempre una canzone sua insieme, però lei cantava dal microfonino mio. Anche tu, così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tuo amore mio, così certo e così bello, anche tu diventerai un vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello, sempre, sempre, sempre. Finita questa cosa, lei ha detto delle cose bellissime al pubblico. È una serata magica perché nel pubblico c'era Ozpetek, c'era Bova, chissà. Tosca è grande! In fondo io sono un clown, guarda come sono combinata. Ti sembra che sono vestita normale? Guarda. Scusatemi. Sono un clown perché è divertente, perché sono malinconica e allegra.